Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. Pronti per un'altra avventura qui dal Groove Master Studio, un'altra avventura con il nostro soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi in contatto da Gegé Telesforo e ancora una volta buonasera ai miei ospiti preferiti, praticamente gli unici ospiti della trasmissione da diversi mesi a questa parte, ma io sono onorato ancora una volta di essere affiancato da Silvia Barba e Francesco Tromba. Ciao a tutti, buonasera Gegé, è un onore essere qua sempre. Anche per spesso. Me, anche per me, sono felice di vedervi, sono felice di incontrarvi, anche perché ormai da giorni, avrete capito, vivo questo isolamento. È una sorta di eremita delle sette note sono diventato, Tromba. Come mai questo periodo? Mi sto preparando psicologicamente ad affrontare invece la stagione di concerti e quindi prima di fare questo devo studiare, ho una sorta proprio di chiusura totale nei confronti del mondo e dell'universo, per cui se già prima uscivo pochissimo e mi allontanavo pochissimo dallo studio e dalla campagna, adesso proprio vivo isolato, mi faccio portare i viveri con un elicottero, me li calano direttamente qui. Nello studio. Stai caricando le batterie al massimo. Speriamo proprio di farcela, perché è diventato sempre più faticoso andare in giro. Ho fatto un concerto tempo fa, Silvia, e per fare questo concerto ho dovuto fare 600 km all'andata, 600 km al ritorno. Sono arrivato in una bellissima struttura, però faceva freddissimo in camera e non c'era neanche l'acqua calda. Beh, no, non si fa. Non si fa così. Non si fa, non si può. Ma io per quello lo dico che è il lavoro più pericoloso del mondo e continua a esserlo. Continua ad esserlo e soprattutto si ha bisogno sempre di un allenamento maggiore per affrontare di volta in volta le situazioni che si presentano, come i grandi rocker che si allenano mesi e mesi prima di un tour. È vero, ci sono gli imprevisti che vanno affrontati e poi in questo periodo sto sul serio ascoltando tanta musica. Forse troppa musica, infatti in questi giorni ho dovuto utilizzare un filtro per ripulirmi un po' le orecchie da tutta la musica che ho ascoltato, anche per selezionare poi i brani che mettiamo in onda al soundcheck. E quindi per ripulirmi le orecchie, non so voi che cosa usate, non sto parlando dei cotton fioc. No, infatti voglio capire filtro, cosa intendi per filtro? Un filtro sonoro, ovvero ripulire le orecchie con musica che di solito non si ascolta abitualmente, quindi io lo faccio con la musica classica. Magari i musicisti di musica classica, quando studiano tanto, poi ascoltano John Coltrane o viceversa, no? E tu cosa hai ascoltato? Ho ascoltato le variazioni Goldberg di Jean Sebastian Bach, fatte al pianoforte da Glenn Gould, che era un esperto. Hai capito, Tromba? Io invece di solito ascolto cose senza melodia, solo rumore, quando mi devo pulire le orecchie. Tromba, tu stai cambiando, guarda. Non stai bene, Tromba, però facciamo qualcosa. Comunque, va bene, direi di dare il via alla puntata. Oggi abbiamo tantissime novità, musica nuova, nomi nuovi che stanno iniziando a sbocciare, ad affiorare nel manto erboso della nostra musica come dei funghi o delle margherite, forse con la bella stagione in arrivo. Fatto sta che sarei pronto per farvi ascoltare il primo brano, ma vorrei chiedere a questi due protagonisti ormai del nostro soundcheck se hanno preparato la tesina che vi avevo richiesto, cioè vi avevo commissionato una ricerca. Ce l'abbiamo fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta, siamo prontissimi. Bene, Tromba? Pronto, pronto. Come hai fatto per prepararti? Sono andato addirittura a Edimburgo, in Scozia, per prepararmi. Adesso mi vuoi presentare anche la nota delle spese? Eh sì, perché a fine puntata. Vabbè, Vedremo. Allora, direi di ascoltare Willow Smith. Mi piace molto questa ragazza, molto particolare, ricorda Erika Badu. Io credo che Silvia Barba la conosca proprio personalmente. No, l'ho incontrata a New York. Ecco. Insieme a suo fratello Jaden. Sono due rampolli, ovviamente figli di Will Smith, l'attore famosissimo. Ah, e ecco. Sono anche molto famosi a New York. Perché... E ti credo che sono famosi. Quando li vedono nei locali fanno i salti di gioia. Esatto, diciamo, perché la signorina Willow Smith a questo punto non avrà una carta di credito, proprio lascia così, no? Non puoi capire. Neanche la carta di credito. Non puoi capire. A parte che le offrono tutto, perché ovviamente essendo un influencer, ovvero... Un influencer, sì. Insieme al fratello la invitano alle gallerie d'arte, alle mostre, ai concerti. Non paga biglietti. Non paga biglietto, il fatto di esserci fa curriculum. Tromba, tu che sei un ex di sinistra o ex comunista, piove sul bagnato in questo caso? Beh, decisamente. Decisamente. Willow Smith con Jimmy al soundcheck di Radio 24. Willow Smith, figlia di Will Smith, con Jimmy al soundcheck di Radio 24. La ragazza non ha neanche bisogno della carta di credito, perché Silvia ce lo ha raccontato, entra nei locali a New York, la salutano, le fanno un sorriso, lei ordina e poi naturalmente forse il conto lo mandano direttamente al papà. No, ma la invitano proprio. La invitano. Il fatto che ci sia una personalità in un locale, a una mostra o a un concerto è importante per chi lo organizza. Come l'hai definita? Una influencer? Sì, no, cioè, ha dei follower su Instagram, su Twitter. Vabbè, ma ragazzi, stiamo parlando di una star. Un po' come il Tromba, infatti, un influencer, muove, sì, no? Muove masse, masse e generazioni gusti. Per spostare proprio il gusto delle persone nei confronti della musica o anche di altro. Sì, però io ho molti meno follower di lei. Sì. E a te non invitano tanto ai concerti, devi pagare. Anche qualche creditore, mi sa, è vero? Sì, assolutamente. Dunque, avevo commissionato una ricerca, ma fra pochissimo daremo il via alle danze, perché abbiamo discusso in questi giorni su come si ascolta la musica, perché ci sono proprio delle vere e proprie tecniche. Intanto la musica viene ascoltata da orecchie diverse, si sa, ho detto quasi una banalità, ma dico questo proprio perché dobbiamo distinguere fra l'ascolto amatoriale, prima di tutto, e l'ascolto professionale. Ci sono delle tecniche, si sono aperti dei dibattiti, addirittura in internet abbiamo trovato qualsiasi cosa e ne vogliamo parlare qui al soundcheck, dopo aver ascoltato però qualcosa di una delle mie band preferite, una band quasi sconosciuta da noi, forse sono sconosciuti anche a Brooklyn, dove vivono e lavorano i Phony People. Però pare che stia per arrivare un album nuovo, ormai lo dicono da un paio d'anni. Se non avete mai ascoltato i Phony People, io ve li presento con questo brano splendido che si intitola Why I Love the Moon. Soundcheck, il suono della musica. Soulchild, il brano con il quale si è fatto conoscere Zach Abel, splendida voce, ragazzo inglese, anche noi ve lo abbiamo presentato un paio di stagioni fa qui al soundcheck di Radio 24. Oggi con Silvia Barba e Francesco Tromba vorremmo indagare su come si ascolta la musica. Sì, l'ascoltiamo in maniera diversa. Intanto abbiamo detto subito che c'è chi ascolta la musica per diletto, chi ascolta la musica per motivi professionali. Quindi scattano dei meccanismi proprio diversi. Allora, io direi di iniziare con Silvia. Che cosa hai trovato? Intanto, tu come ascolti la musica? Allora, dipende da quale musica ascolto, nel senso che se devo lavorare ho bisogno di concentrazione, per cui l'ascolto con le cuffie, chiusa in camera, devo avere assolutamente tutta la concentrazione a disposizione per capire, per affrontare, comunque per analizzare. E infatti c'è un modo di ascoltare la musica che è appunto stato riscontrato dagli scienziati, che è questo molto più sistematico, ovvero c'è un'analisi particolare, mentre c'è un modo più empatico, che è quello più diretto, più emotivo, che fa leva un po' sulle nostre emozioni, appunto sulla nostra personalità, sul nostro vissuto, che è un ascolto ascolto più leggero, se così si può sintetizzare, ovvero un ascolto che può avvenire in macchina, può avvenire durante una conversazione. L'ascolto degli appassionati di musica, degli appassionati più che di musica. Dei professionisti. Esatto, io adotto ambe due i metodi, perché dipende dal tipo di musica che ascolto. Sì, intanto vorrei subito precisare che c'è gente che la odia la musica, non ne capisce il senso, non solo del mestiere, che so, del musicista piuttosto che quello del direttore d'orchestra e degli addetti ai lavori, ma proprio hanno dei veri problemi fisici. A me dispiace molto per loro, perché si privano di una delle cose piacevoli della vita. Però così come ci sono persone che odiano i cani, i gatti e la campagna, no, ci sono anche quelli che non sopportano sì, la musica. Queste persone vivono accanto a noi, quindi attenzione a questi nemici. È vero, siamo circondati. Circondati da tutti i lati. E poi si formano le tribù, no? Ci sono delle tribù di integralisti nei confronti della musica, cioè quelli che sono chiusi nei confronti dell'altra musica, quindi rispettano e ascoltano soltanto le cose che frequentano, degli ambienti sonori nei quali si sentono a loro agio e protetti, e a volte si ascolta la musica anche per entrare a far parte di alcune tribù. Quelli sono i più pericolosi, secondo me. Tipo? Gli integralisti sono i più pericolosi. Gli integralisti in ogni caso sono i più pericolosi. Assolutamente. Anche quelli, gli integralisti della musica. Certamente, non c'è dialogo, non c'è confronto, non c'è curiosità. Io rimango nel mio, tu rimani nel tuo, e di che cosa dobbiamo parlare? Va bene, allora intanto parliamo del nostro, ok? Parliamo del nostro. Va bene. Vediamo i procedimenti sull'ascolto della musica. Allora, Francesco, tu sei stato a Edimburgo. Come si ascolta la musica a Edimburgo? Che sei andato a fare a Edimburgo? Beh, in realtà sono andato a comprare un sacco di dischi, visto che costano anche un po' meno. Vabbè, mi sembra veramente fatto l'investimento sul viaggio all'albergo per andare a comprare i dischi a Edimburgo. No, questa, vabbè, comunque è una notizia. Sì, costano meno che da noi. Costano meno, sicuramente. Va bene, meno che a Londra? Anche meno, anche se trovi meno. Alcuni negozi, anche meno. Va bene, e poi si trova di tutto, giusto? Sì, è comunque una scena musicale molto viva, ovviamente più concentrata però sul rock e sull'elettronica rispetto a quella è una tradizione tipicamente inglese. Eh sì, però ci sono tantissimi artisti nuovi che vengono dalla Scozia e sono interessanti. Ma allora, torniamo a noi. Silvia ci ha detto che lei ascolta la musica in maniera diversa a seconda del genere e anche dello stato d'animo, e se lo deve fare per motivi professionali o per puro piacere. Tu invece qual è il tuo rapporto con la musica da ascoltatore? Ecco, io diciamo, anche io adotto entrambi i metodi. Quando appunto devo preparare una puntata di soundcheck, ovviamente mi metto lì, ascolto in maniera seria, sono concentrato su quello che ascolto, spesso con le cuffie o con lo stereo di casa. Però quando sono in giro, magari per strada, devo andare appunto a degli appuntamenti, sono sempre con le cuffie e l'ascolto col telefono, col cellulare. In quel caso ovviamente i particolari li noto molto di meno. Poi quando riascolto gli stessi brani a casa con lo stereo o con le cuffie, quelle serie fatte bene, noto delle differenze quasi abissali in alcuni casi. È vero, questa è una delle domande che io faccio quando mi ritrovo a incontrare i ragazzi nelle scuole di musica, nei conservatori, insomma, durante le masterclass. Ed è una domanda chiave, perché già dalle risposte si capisce se sei un musicista o se sei un semplice ascoltatore. E poi naturalmente vi spiegheremo anche il perché. Ma che cosa fa il musicista? Ve lo diremo fra pochissimo, dove? Qui al Soundcheck di Radio 24, dopo aver ascoltato ancora una volta Zach Abel, ma questa è una produzione nuova, ospite di un, non so se è una band o ha un fisico. È un producer. È un producer che si chiama Wookie, il brano è molto divertente, Higher, e qui adesso io mi metto le scarpe adatte e mi metto anche a ballare. Dai. Soundcheck. Il suono della musica. In my mother's home. Mr. Sanfal, soundcheck di Radio 24 con Like the Piano. Allora, dicevamo, come si ascolta la musica? Che cosa fa un musicista al primo approccio con una composizione? Ecco, l'analisi del musicista deve essere... Contare. contare. Certo, bisogna contare, quello bisogna contare sempre, è una cosa automatica, ma il musicista sta molto attento alla forma e alla struttura della composizione. È una delle prime cose che analizza al primo ascolto, poi va a scavare. E naturalmente la forma e la struttura di una composizione viene definita dall'esposizione melodica. Quindi anche quando ti viene dato una partitura, per capire la forma e la struttura del brano bisogna analizzare la melodia e quindi contare, come diceva il maestro Tromba. Questo perché? Perché poi il musicista, soprattutto il musicista di jazz, quando andrà a esporre la sua improvvisazione, lo dovrà fare su quella forma e su quella struttura, considerando la melodia. Quindi Tromba, la variazione su tema. Hai capito come stanno le cose? La variazione, variazione su tema è importante tutti i mercoledì su Rai 5 alle 21:15. Detto ciò, parliamo proprio dell'analisi della musica attraverso l'ascolto. Io una volta mi concentravo di più, forse perché avevo più tempo. Devo dire che da ragazzo, pure studiando musica, facevo un ascolto veramente maniacale, analitico e profondo della musica. Oggi, avendo un po' meno tempo, vi devo confessare la verità. Se non ascolto la musica nello studio per motivi professionali, quindi per fare la radio, ma sono molto veloce, è diventato molto veloce nell'ascolto, di solito non ascolto il brano per intero, anche perché sennò non basterebbe il tempo a disposizione. Cerco di capire subito se mi appartiene, se lo sento fisicamente e epidermicamente, se può essere adatto al programma. Quindi io faccio un ascolto per il programma, poi per me ascolto anche delle altre cose, ma la maggior parte delle volte la musica l'ascolto in macchina. Succede questo. Bene. Quindi quando tu mi manderai il tuo nuovo album, Silvia, e spero accada presto, io lo ascolterò in macchina. È un riferimento a cui appunto ti dedichi particolarmente, perché lo stereo della macchina ha il suono che ti piace? Beh, intanto la mia macchina ha un bel suono, però non è per quello, è proprio per una cosa di disponibilità, è proprio il tempo, perché poi quando si sta a casa oramai la musica non l'ascolto più, perché devo anche cucinare. Madonna, quante cose fai? Devo fare la lavatrice, l'unica cosa che non faccio a casa è stirare. Ecco. Quello non lo so fare bene. Però io ho della musica anche per fare le pulizie di casa. Ma pensavo che tu avessi un bel ferro da stiro. Io ho fatto proprio uno studio sulla pulizia, sulla musica adatta a fare le pulizie. Vedi? Ad esempio, James Brown funziona benissimo. James Brown funziona sempre, come la Fitzgerald. Ma fai delle pulizie fantastiche con James Brown. Sì? Sì, sì. Non ho mai fatto. Proverò. Allora, torniamo fra pochissimo, dopo l'informazione di Radio 24, ma anche dopo aver apprezzato questo brano intitolato Get You, la voce è quella di Daniel Cesar con la partecipazione di Kali Hoochies, giusto? Esatto. Kali Hoochies, credo produzione canadese. Sì, lui è canadese, Daniel Cesar, ha 22 anni, giovanissimo, ha lavorato tantissimo con il gospel, ma adesso definisce la sua musica New Soul. Com'è? È molto bravo, ci piace. No, ma fisicamente? Ci piace, te l'ho detto. A posto. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Seconda parte del soundcheck, puntualissimi dopo l'informazione di Radio 24, qui dal Groovemaster Studio con Gegé Telesforo, Francesco Tromba e Silvia Barba. Oggi stiamo analizzando l'ascolto della musica, come si ascolta la musica. Siamo quello che mangiamo, lo diciamo spesso, ma siamo anche quello che ascoltiamo. E sono state fatte delle ricerche e noi proprio per quello abbiamo spedito Francesco Tromba la settimana scorsa a Edimburgo. Perché proprio a Edimburgo? No, a Edimburgo, a Cambridge. Ah, quindi tu non sei andato a Edimburgo per la... No, sono andato per altri motivi. Vabbè, allora, dico la verità. Allora, vediamo i ricercatori di Cambridge che cosa hanno scoperto. Sì, allora, la domanda di partenza è stata appunto se oltre a generi principali, diciamo come le caratteristiche legate all'età o alla personalità, dalla musica si potessero ricavare degli altri elementi in cui come caratterizzare le persone. Con questo campione fatto dall'Università di Cambridge di 4.000 persone sono stati individuati due principali tipi di persone, ovvero chi ha un'elevata empatia e chi invece ha un'elevata sistematizzazione. Che cosa significa? significa avere un'elevata empatia. Ovvero quelle persone che si fanno influenzare dalle persone con cui parlano, nel senso ascoltano, in base a quello che gli dicono le altre persone, ovviamente reagiscono con, se si tratta appunto di un discorso magari strappalacrime, si mettono a piangere, eccetera, eccetera. Tramite questo poi si è anche risalito al tipo di musica che ascoltano, che preferiscono questo tipo di persone. Si è visto. Quindi che le due categorie sono gli empatici e chi invece sistematizza. Ok. Quindi chi è un po' più freddo. Chi analizza. Sì, esatto. Okay. Chi Bene. È più analitico. Analitico. Si è scoperto appunto che chi ha un'elevata empatia preferisce una musica più soft, come il rhythm and blues, come il soul, come anche il jazz. Musica, diciamo, pop, jazz, facile da ascoltare. Mamma mia, il jazz però... Però dipende appunto che tipo di che jazz tipo ascoltano. Di jazz. Certo, se ascolti lo smooth jazz californiano, sì, posso capire, ma... magari se ascolti... diciamo il jazz più contemporaneo. Insomma, ho capito che devo prenderli con le pinze questi di Cambridge, non sono come quelli di Edimburgo che... diciamo che come tutti stelle. Gli studi che riguardano le scienze umane sono abbastanza, allora, gli difficili. Empatici preferiscono soul, jazz, si sì. lasciano anche influenzare dai gusti degli altri. Sì, ti leggo anche quali sono stati i brani principali scelti da questa categoria di persone. Hanno scelto Jeff Buckley, Alleluia, Nora Jones, Come Away With Me, Billie Holiday, All of Me, e i Queen, Crazy Little Thing Called Love. Ah, bene. Quindi diciamo capiamo anche che tipo di persone possono essere attraverso la musica che ascoltano. Certo. Invece chi è più analitico, chi sistematizza di più, è appassionato maggiormente di musica contemporanea, ma anche di punk, di musica metal, quindi una musica che trasmette molta energia, quasi... cioè, leggendo anche quelli che sono i brani, sono i Sex Pistols, i Metallica, sì. Quindi diciamo questo genere di musica viene caratterizzato da questo tipo di persone. Ma anche la musica classica. Sì, anche la musica classica. Questo è buffissimo, sì, no? È una si cosa passa dai strana. Sex Pistols alla musica classica, quindi sono nella stessa categoria. Non so che cosa dire, non so se... che devo fare? Mi devo fidare di questi di Cambridge, che si sa che sono sempre strani lì a Cambridge. Vabbè, è no? una ricerca. Tu in quale fenotipo ti riconosci? Ma non lo so, io mi appartengo un po' a tutte e due le categorie, non saprei dire, perché intanto non mi lascio influenzare con grande facilità, oramai ho i gusti abbastanza consolidati, però sono molto aperto e quindi ascolto quello che mi viene proposto anche dagli altri, poi sta a me decidere se mi piace o no, ecco, insomma, però non sono uno che segue le mode, quasi mai, non mi è mai successo. Beh, però sei una persona empatica pur analizzando i brani che ascolti. Certo, sono analitico ed empatico. Hai visto? A volte piaccio così. Infatti questa ricerca, diciamo, identifica quelli che sono i vertici, non tutto quello che c'è in mezzo. In mezzo Vabbè, c'è adesso, un altro adesso mondo. Adesso tu sei appassionato di Inghilterra e vuoi giustificare questi di Cambridge, che secondo me dovremmo andare lì e discutere un po' con loro animatamente. Direi di ascoltare invece il signor Bill Halke, molto apprezzato negli Stati Uniti, forse empatico ma analitico al tempo stesso, bravissimo musicista, collaboratore di Robert Glasper, ma anche di tanti altri protagonisti dell'attuale scena jazz e R&B, qui con la partecipazione di Big Creek, il brano si intitola Pleasure Toy. Soundcheck, il suono della musica. Altra novità al soundcheck, Joyce Rice and Kay Franklin per una produzione di Mind Design, brano intitolato Rocket Science, morbido ma con questo andamento ritmico singhiozzante tipico del contemporary R&B di oggi. Backbeat al 100% anche per questi signori. Stiamo analizzando l'ascolto della musica. Il signor Tromba ci ha riportato una recente ricerca fatta da studiosi di Cambridge, ricerca che noi prendiamo con le pinze, che hanno diviso gli appassionati di musica, i fruitori di musica, in due categorie principali: gli empatici e gli analitici. Gli empatici ascoltano smooth jazz, soul e sonorità senz'altro più morbide, invece gli analitici si spostano tranquillamente dal rock più potente al punk dei Sex Pistols fino a cose di musica classica, giusto? Esatto. Ecco, abbiamo riportato tutto, però ci sono anche delle altre ricerche che sono state fatte ultimamente proprio per analizzare l'ascolto della musica e capire anche la gente attraverso la musica che ascolta. Beh, è un po' di anni che ci si chiede se ascoltare la musica classica, visto che da sempre la musica classica è considerata una musica colta, renda più intelligenti. Quindi si parla di effetto Mozart. L'effetto Mozart. Sì, l'effetto Mozart, ovvero ascoltare Mozart o la musica classica in generale, rende davvero le persone più intelligenti. Ecco, attenzione che qui stiamo per sfatare qualcosa. Forse, no, non mito. Lo so, non lo dico, perché senz'altro saranno stati dei ricercatori di Cambridge a fare questa ricerca? No. No. No, è partita da una ricerca dell'Università della California. Della California. Quindi attenzione, probabilmente non è vero che chi ascolta musica classica è più intelligente. Quindi quelli che ascoltano musica classica, per favore, levatevi quella puzzetta sotto al naso. Che siate avete... meno snob. Lo dico anche a quelli che ascoltano solo ed esclusivamente musica jazz, perché pure quelli non scherzano. Esatto. Oh, bene. Allora andiamo a vedere che cosa è venuto fuori. Beh, il mito è quello che, insomma, gran parte del mondo scientifico si è chiesto se appunto l'effetto Mozart di migliorare le capacità cognitive delle persone sia dovuto alla musica classica. In realtà tutto ciò, dopo una serie di altre ricerche anche in Austria, in Europa, insomma, di altre università, si è scoperto che la musica che rende davvero migliori è la musica che ci piace. Oh, ma questa è una bella cosa. Può essere qualsiasi genere. Io lo voglio conoscere, questo ricercatore. E questo è come se mi avesse commissionato il programma, quasi. E certo, basta che al cervello la musica che noi ascoltiamo risulti piacevole, questo già ci rende delle persone migliori. Ma perché? Perché ci rende delle persone che stanno meglio, che quindi godono che del benessere di questa forma d'arte. Vedi, tromba, i ricercatori californiani, al contrario di quelli di Cambridge. Allora, andiamo a altra musica. Questo signore, ne abbiamo parlato di Greg Dean. Greg Dean, un bel ragazzotto. Non so se hai visto la copertina del disco, Silvia. Guardo sempre le copertine dei dischi. Certo. Anche l'occhio vuole la sua parte. Certo, perché tu anche da producer cinematografica... Ma ovvio. Devi vedere anche la confezione, no? Ma anche da empatica. Io guardare anche quello che ascolto. Cioè, è un ascolto completo. Che tipo di emozione quindi viene fuori dopo l'ascolto dell'album di Greg Dean e dopo aver visto la copertina del disco? È un ascolto piacevole, perché lui è un bel ragazzo, oltre ad essere un bravo artista, e tra l'altro è un artista molto legato alle sue origini sudafricane. Tra l'altro sta ultimando un musical su Nelson Mandela. Un artista completo, ecco perché noi ve lo proponiamo qui al Soundcheck. Al di là dell'aspetto fisico, è anche dotato da un punto di vista musicale il signore. Il brano si intitola Grass and Greener. Can you hear me? Mua, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Soundcheck, il suono della musica. Sono bianchi ma pieni di soul questi ragazzi. Greg Dean con la partecipazione di Jarrod Lawson, bravissimo pianista cantante, brano intitolato Colors, qui al Soundcheck di Radio 24. Potremmo dire in questo caso Dio li fa e poi li accoppia, perché sono veramente bravissimi tutti e due e fisicamente pronti anche per poter interpretare qualche ruolo al cinema. Beh, perché no? Io devo dire, ogni volta che preparo le scalette che tu sistematicamente ci mandi, io vado a vedere le loro copertine. Sì. Come si promuovono anche appunto visivamente, perché poi la musica non va solo ascoltata, secondo me va anche un po' percepita visivamente, quindi un ascolto completo. No? Sì, certo, è così. Tu non lo fai con le tue artiste preferite? No, quello lo fa Tromba. Esatto. Tromba più volte si è presentato qui in studio carico di testosterone per aver visto, che so, la performance di una delle sue preferite, Lian La Havas. Ma anche... Vabbè, quando vedi le foto di Lian La Havas sui video non puoi è vero? Che avere quella reazione. Lo so, quelle faccio una proposta, potremmo fare... un calendario di soundcheck, no? Ecco, facciamolo. Naturalmente in copertina ci dobbiamo essere noi, noi in perizoma. No, faremo... non lo so. In perizoma non lo so, presentabili, ma in copertina sì, decisamente. Tromba, tu lo reggi il perizoma? No, cioè, no. Assolutamente. Direi di no. Scusateci, però siamo fatti così, perché la musica dà la testa. Ecco, parliamo dell'ascolto della musica. Quando si ascolta tanta musica, poi un po'... si perde il senso della realtà. A me succede questo. E come fai appunto per recuperare... Per rimettere i piedi per terra? Sì. È facilissimo, basta levare le cuffie dalla testa e vedere le bollette che ti sono arrivate in giornata. Ecco. No, allora voglio dire un'ultima cosa, che ascoltare la musica fa bene. Oh. Fatelo, qualsiasi sia il vostro genere preferito, fatelo. Infatti perché... apprezzo molto la ricerca che è stata fatta dai ricercatori californiani per sfatare il famoso effetto Mozart, ovvero la cosa che gli appassionati di musica classica, un po' con la puzza sotto al naso, dicevamo, si sentono più intelligenti degli altri perché ascoltano quella musica. Non è vero, non che è la vero. Musica classica rende più intelligenti di altri generi musicali. No, esatto, ma è la musica è capace di appunto migliorare l'umore, le nostre performance, le nostre prestazioni, basta che sia piacevole, basta che sia quella preferita. A noi piace la musica e attenzione, perché qua vi faccio ascoltare qualcosa di nuovissimo, c'entra sempre Jarrod Lawson, il brano si intitola Are You Ready, e il protagonista di questa produzione, album che deve essere ancora pubblicato, è un batterista della nuova generazione, si chiama Tyrone Hendrix. Devo dire che qui la batteria si sente poco, ma fra un po' vi faccio sentire qualcosa di veramente speciale. Soundcheck, il suono della musica. Show You The Way, Thundercat torna con un nuovo brano, non sì. Credo che la produzione dell'album sia ormai completa per lui. È sì, quasi. Sì, sta per uscire tutto l'album. Ti ha chiamato lui in persona, Silvia? No, non lui direttamente. Justin? Dai. Ho indovinato. È stato lui. Minimo doveva chiamarsi Justin. Ok. Justin ha chiamato Silvia, confermato. L'album di Thundercat è pronto e pensate che mi piace molto questa operazione di Thundercat, che chiama due veterani del soul tipicamente bianco come Michael McDonald e Kenny Loggins. Che voci qui al soundcheck di Radio 24. Siamo in chiusura dopo questa puntata dedicata all'ascolto della musica. Abbiamo detto qualcosa, ma non abbiamo detto tutto, perché ci sarebbe veramente da aprire un dibattito. Però vorrei chiudere con qualcosa di molto importante e interessante. Tromba, ce l'abbiamo un colpo in canna forte? Sì, è tanto per cambiare, è sempre dell'Università di Cambridge. Non è vero. Se lo fa sì. Apposta. Vabbè, allora sentiamo questo è interessante. Sentiamo questi di Cambridge, che altro hanno da dire. Allora, tramite un campione di 2000 persone, loro sono partiti dall'idea appunto di come se fosse l'affermazione di quali sono i propri cantanti preferiti, la propria musica preferita, un'affermazione di sé, di come si è anche nella vita vera e propria. E quindi hanno diviso 23 generi musicali in 5 categorie base, risultando appunto... Possiamo elencarle? Sì, il nome di music, cioè hanno fatto M.U. S, I, C, e ora ti vado a leggere quali sono le categorie. M di mellow, ovvero tutto il pop, il rock leggero, ma anche il soul e l'R&B. Chi ascolta questo tipo di musica viene considerato romantico dall'Università di Cambridge, ha un tipo di approccio molto romantico alla vita. Invece poi c'è la U di unpretentious, ovvero chi ascolta musica senza pretese, come il country, il bluegrass, il rock and roll, musica che serve a rilassarsi, musica semplice da ascoltare. Questo tipo di persone... Questi non hanno ascoltato i Punch Brothers, sì, secondo infatti. Me. Questo tipo di persone viene considerata coscienziosa. Cioè chi è molto coscienzioso ascolta questo tipo di musica. La S di sophisticated poi c'è. Chi ascolta musica sinfonica, l'old jazz o la musica celtica. Chi ascolta questa musica viene considerato una persona molto aperta mentalmente. poi c'è la I di intense, ovvero chi ascolta rock duro, punk, heavy metal, anche power pop. Questo tipo di persona è considerata ovviamente molto energica, quindi di solito sono più i giovani che si identificano in questo sottocategoria. Intense, sì. Intense. E infine la C di contemporary, ovvero chi ascolta acid jazz, elettronica, rap o latinoamericano. Chi ascolta questo tipo di musica è una persona abbastanza dinamica di solito. Bene, troverete tutte queste informazioni sulla pagina del Soundcheck di Facebook. Vi chiederei perlomeno di mettere i link in modo che gli amici possano andare a verificare tutte queste cose che hai detto. Ma continuano i miei dubbi nei confronti di quelli di Cambridge. E alla fine invece io devo sostenere invece la ricerca californiana, nel senso che ascolterò solo ed esclusivamente la musica che mi piace, e perlomeno potrete stare sicuri che qui al Soundcheck ascolterete solo e soltanto le cose che mi piacciono, finché sarò io a condurre il programma. Quando arriverà Tromba, allora lui e i suoi amici di Cambridge metteranno la musica che vogliono. Vi salutiamo, vi ringraziamo, attenzione perché arriva Ronald Brunner. Avete mai sentito parlare di questo? È un mostro, un animale, dietro ai tamburi, dietro la batteria, praticamente suona lo strumento da quando era ancora nel grembo della mamma, ed è venuto fuori una macchina bellica dietro ai tamburi. Ronald Brunner qui con la partecipazione di Thundercat, che è il fratello. Che è il fratello, sì. Non ci posso credere. È una famiglia di artisti e c'è anche un tastierista. Chi te l'ha detto? No, lo so, questa non c'è bisogno che lo dica nessuno. Io lo so chi te l'ha detto. No, dai, smettila. Te l'ha detto Justin. Take the time, arrivederci, ci sentiamo domani 19:15 al Soundcheck. Grazie a Silvia Barba e Francesco Tromba. Grazie. Ciao. A tutti voi.